Attenzione, binario orientativo. Vabbè, Luca. Pronto. Non mi accoppi. Pensava. No, veramente mi sono suicidato, erano le 5:30, da voi era prendendo un po' col telefono, da voi è già steso qui da radiolina e niente, poi mi abbasso di cido, ho acceso la radio, vi ho messo da mangiare ai canarini, hanno mangiato tutto, visto. E niente, poi mi ho comprato quella medicina mi, ieri notte, da ieri notte me la sto mettendo. Adesso me l'ho messa stamattina e prima di coricarmi mi cambio le band e vediamovi. È venuta quella infermiera stamattina e mi ha detto chi te l'ha data questa medicina, oggi sono da Sassari dove vado a fare terapia io, se no stai a rompendo i miei coglioni, cioè, se devo risapere poco maledizione chi? Anche loro con la gara ti ha preso. No, quello non mi ricordavo come si chiamava già. Oro con lui dai. Oro, olio. Oro con lui dai. Ehi, avamelo scrivo così, se mando a mia sorella e me lo faccio prendere. Ma quello me lo devo mettere dopo che ho fatto la medicazione, cioè prima di fruttuguidu e da buri fruttuato. Prima li metti loro con le gare e poi li metti la polverina sopra e ci fa tipo un impasto, capito? Ah, ho capito, quindi prima li metto loro con le gare e poi gli sfrutto la medicina a polvere dalla bomboletta. Hai preso quella che ti ho detto io? Ehi, ti sei vestito Silver Spray che con acido ialuronico mi pare già scritto e sale di lisina mi pare. Quello ti dovrebbe fare bene. A me mi ha fatto bene, in un mese mi ha guarito tutto. È venuto 5 anni con la ferita a bisso. Eppure sono così me, non sono così in carne, ma ormai con 2 anni e mezzo mi sono così e mi rompe le scatole a chi mi ha sono impedito. Vabbè. Comunque a me ha fatto bene, poi non so se faccia bene a tutti, però a me ha fatto bene e penso che faccia bene un po' a tutti quanti, perché questa a me me l'aveva consigliata una ragazza, mi ha detto che il nipote aveva avuto un incidente, c'era un taglio grosso e metteva questo oro colloidale e gli è passato subito, capito? E quindi l'ho provato. E infatti non ho colta nulla provato, tanto mi hanno fatto pure il fuoco, fumate, fumattine, chiedo, guarda di chi da maniera, guarda d'altra maniera. E da chi da, no, boh, non lo so, non reagire. Ma come ti hai detto tu, mi, se ti fa se ricordo a tipo voragine, rimane la bella di tipo arrivianti e in mezzo rimane tipo lucca per di nuda. E non fa bene, non fa bene perché sembra che non rigenera. O magari si rigenera un po' e poi alla fine anche prima di medicarlo me lo lavo con acqua e come si dice, acqua e sapone neutro, gli metto un cucchiaino di bicarbonato, lavo bene il piede, lo asciugo e lo medico. No, a me mi rimaneva la pelle bianca attorno, la pelle morta, poi la so bici. Ogni volta che andavo a liquidare mi la scalzava di tutto. Ti fai che su bordarello della birra morta in giro e non riesce a mettersi e fallisci a fare un bicchiere. L'abilità che non si forma la carne, capito? Non si forma la carne, rimane vuoto e praticamente è infetta, la birra è infetta. Perlomeno come ce l'avevo io era così. E cambiavo tre gazze al giorno. Tre medicazioni al giorno facevo. Sì, a chi da chi alla fine rimane bussando, drena ubbidi, dimmo, perché si induppa la garza. Sì, già è così. Pure la mia dovrebbe essere così la ferita, perché ha un racconto duio, anche la mia è così. C'è la bella di bocca di là, già di su, chissà, che va alla parafarmacia dove compra pure le bende vicino a casa. C'è la bella di bocca di là, chissà, tra medicazioni, gazze, bettadine, tutte queste cose. Io lo so, perché io questa farmacia ne ando io, voi andate questa farmacia che fa vicino a Giorra, in Ghili, a che vicino ai non, e sono sempre andato lì, in Avano, ma metti che si chiama Bravo, chissà, e niente, infatti quando vedo a mamma, mi dice, e poi che serve oggi, e chi dai, dammi chi, tanto mi sono prendendo il fuoco di denaro. Comunque me l'ha ordinata perché non ce l'avevano subito questo silver fry. Perché hanno quella simile ma non serve. Non prendi quello originale sempre. Quella simile l'ho provata e non mi ha fatto effetto. Invece quello originale sì. Sembrerà un caso, ma a volte mettono meno milligrammi di roba, capito? Dicono che sono uguali, però sono facsimili, e certo non vanno bene. E vabbè, comunque, interessante che ti emozioni, io ti auguro che ti faccia guarire tutto. Solo che tu con la patologia che c'è non lo so se va bene, è quello che io ho paura, che magari a te non faccia bene per quel tipo di patologia che c'hai. No, ma non rifasi nulla, chi la patologia mia, praticamente l'organismo mio non riesce a rigenerare il sangue, quindi mi aggiungono, ma mi aggiungono solo globuli rossi senza aggiungere altro, praticamente per tenere l'HB, che si chiama, che è l'emoglobina, là, se tu a livello del sangue tipo dell'individuo comune 13, il numero va di scende sotto al 13, arriva al 9, mi integrano una sacca di sangue e torna a 13, e quasi un mese che non va nulla, però altre cose non ne ho. Poi le medicine, non sono allergico a nessuna medicina, non so come fabbrico e né nulla, quindi penso che dovrebbe funzionare, a meno che dal problema della schiena, che ci sono magari determinati ricettori dei nervi che non funzionano, magari il bidio non trasmetti, da a tipo di momento il gatto mi è rimasto, gli fucitti così, e non li bocca le informazioni, bandani a sapura usando. Io ho usato quello, mi ha fatto bene, con la verità, se non te l'aveva detto. prova, vediamo un po' se ti fa bene. A me in un mese mi l'ha fatto passare, comincia a stringersi, dopo un po' di settimana comincia a stringersi il taglio, il buco, la voragine, diciamo. E infatti già dovrebbe funzionare perché allora praticamente quando io non mi medicavo di piedi, quando veniva quella ragazza me lo medicava da buia ad andare al giro che era un po' troppo impregnato di allora me ne toglievo tutto, come si asciugava il piede che tirava un po' la pelle, no? Perché se è nascito Maria che si era di fuorimarginente. E mi via buco un po'. Infatti molte volte la notte non vedevo più, scleravo a sinistra, a dritta e a sinistra, un po' a dritta, un po' a sinistra, alla fine mi fuori in terra, io va, oh, mi il cappuccino, faccio la televisione, gli va via a Tacomogeno, gli dissi Bobo Marley, va a menù, fa due B, e da buono si trova a stare. Però è come hai detto tu, va a medicarsi 2-3 volte al giorno se si impregna più del tutto, perché lo devi lasciare più asciutto possibile, perché quando rimane umido si ingrinzisce, dai lì, ma ti plubili, si va di fuma, ti andesi in mare e si cruciuppeggia, là, come ti bustile, più veruzzino. Però dovrebbe agire come tutti già, dovrebbe agire per forza. A corso di stare sino un mese, due mesi, provando, però devo provare. Perché tanto ho fatto le altre cose, cioè sono più sempre come tu, e andavo nei guide, rastica, e prima una medicina, e poi l'altra, la buona menerale, e guide, l'altra, la vedi tu. Proprio vengo più a chi, a parte che ogni qualvolta che andavo, se chiamavo l'autoambulanza, gli pagavo 80 euro a chi, non venne esenzione, basta di oro. C'è stato un mese che tra fare la trasfusione, fare rugoso di rugoso qui, la visita della travisita a Bandini, a Luci, a chi va più di Luci, di non vedi, certo è una cosa, la buia di Rubini, sono andate anche 4 volte. 80 euro, cazzo, se tu mi che non sono catturone bobbi di ragazzani. Oh, perché la trasfusione te la fanno pagare? No, la trasfusione no, ma quando devo andare tipo a fare la trasfusione devo già mangiare chi si croce salda, come si chiama, e andare a turlare con 80 euro da giusto a sassi, capito? Lì c'è l'Avis, se c'è anche sorso emergenza, perché non chiami quelle, non provi se ti prendono di meno? No, non lo fanno quel servizio, loro fanno solo il servizio 118, 112, tipo pronto intervento, vai. Non ne va di negli istigosi di tu già mi banda a fare una visita, o tipo per portarti in banca, o per magari di andare a un gioco a Pellugu, non lo fanno loro questo servizio, quindi devi chiamare un'altra ditta di Mura. Ma di dove sono questi qui? Di Sassari? Di Sassari sono, mi sembra che si chiamano ADV, Croce Sarda, una cosa del genere. E niente, poi l'altra volta ho chiamato un altro, Dorra. Guarda, un casino che a parte noi magari tu fatto di pinnini di Napa a Sassari, un fatto che fanno i rimedi che non esibili, e quando arriva a Sassari che tutto quanto imbattuati, mani in ammortizzatori, tutti quanti smamittati, via di Casulio, via Tegna, ultraghiando, tra Sorso a fare il viaggio, Sorso Sassari ci vogliono quei 15-20 minuti, da. Grazie, ma quando arrivi ti dico ragazzabili, sì. Allora, la prossima volta chiama la misericordia, però chiamali un po' di giorni prima del giorno che devi andare, che loro ti prendono l'appuntamento, quelli lì fanno offerta. La misericordia di Sassari va offerta. Non penso che abbia cambiato adesso, a me mi hanno preso l'offerta per andare all'ospedale, gli ho dato un'offerta di 20 euro io. Va prova a vedere cosa mi dici, no, ma anche a loro me li devi avvisare prima, non è che Ma una cosa che hanno sempre, Padini, so che per esempio adesso devo andare il 2 di dicembre, devo andare per fare la trasfusione dei globuli rossi. E mi sono gli anni. E niente, e vediamo che quando devo pagare i sacchetti. Adesso provo a vedere come ti metto giù la misericordia, lo becco su Google, il numero di telefono, e li facciamo a vedere cosa mi dice. Attivisti con l'accusa che lo sai, oramai sono un paio di lunedì, ogni tanto mi mandano uno diverso, ce ne sono due diversi, e non sanno come ti devi fare a riccare, è un casino, cioè quando arriva a stasera sono tutto canto e batto l'altro. C'è gente che non ha fatto i corsi probabilmente. Io le ho fatto 17 anni di servizio ambulanza ed ero soccorritore e autista. E praticamente noi facevamo tutti e due i tipi di servizio, sia trasporti che urgenze. Facevamo tutti e due. E in più facevamo anche antincendio, cioè avevamo Land Rover, facevamo l'antincendio con Land Rover. Praticamente prendevamo un'offerta, adesso siccome hanno capito che si guadagna, tutti ci stanno approfittando anche delle persone malate, questo mi dà proprio fastidio perché questi tipi di interventi dovrebbero essere fatti a offerta, non a pagamento, perché se uno non se lo può permettere allora devi morire. Scusa un attimo già che lo fai in verticale con mamma e non ti ho sentito. Ho detto, ripeto, che io ne ho fatto 17 anni di servizio ambulanza, era autista e soccorritore, ho fatto tutti i corsi, tutto qua. Praticamente noi prendevamo a offerta e non lo vedo giusto che facciano pagare una cifra così grossa, se uno non può permetterselo no deve morire. Infatti è così. E sono attrezzati, mi fanno il rugoso balubanco, ma se tutto mi... Io con la scusa che mi posso fare la ricevuta e da voi me la posso scaricare alle 7.30 o come ti diciamo, capito? Ormai scusa ne ha GP sui denari e non ha GP in 20 anni, nel senso che è tutto registrato, da voi si sono truffi o non sono truffi e arrestano tutti quanti. Sarebbe una dei tutti quanti e guarda, sono tutti quanti bari di nani, i gatti decine di gabbo, non è compreso che pure che fanno i denari, da voi non fanno neanche nulla, non se ne fate nulla dei denari. Allora, se tu devi scaricare le 7.30 devono farti la fattura con lo scontrino attaccato, se no le 7.30 non te lo puoi scaricare, con una ricevuta normale non te lo scarica. No, mi fa un gozo e da voi alla ricevuta normale l'attacca mi pari la marca da bollo da 16,50 euro, non mi metto come si diavolo è, o da 4,50 euro. Mi fate un gozo tutto di pura la fatturina o come si chiama. Ma l'hai già scaricato tu questo? Me lo quasi va, me lo quasi, praticamente io sono sotto il tetto su, quindi sono, come ti si dice, e quindi sono, lo scarico nel 730 su, ma visto mi posso fare sempre tutte le ricevute. Sì, a carico suo, sì, a carico suo familiare. Purtroppo prima eravamo in Pucchi, c'era la Croce Verde a Sassari e lui, la Croce Blu, poi sono venute tutte le altre, CISOM eccetera, tutti gli altri. Adesso hanno visto che è un servizio che si guadagna e allora fanno pagare. Mica dall'ospedale a noi, quando facevamo i servizi ci davano 15 euro se era con la sedia e manellato 30 euro per i trasporti che ci passavano. Ma sicuramente c'era di Cuscini, perché c'era quel ragazzo che era tipo come di Bustudini, volontario, che gli ho detto ma a voi vi pagano e a noi ci danno il 10% di ogni viaggio e me le pieghendi che loro registravano come cose, quindi tipo come tributi, dei contributi, e quindi ma io tanto lavoro non ce n'è, faccio questo, almeno mi segnano i contributi, e qui tanto mi riesco, lo voto, e c'è sempre qualcosa già segnata nei contributi, ma si ma di tutto di fine. Poi magari gli danno 15 euro a questi ragazzi ed è desiderio di tutto il rischio compreso, perché alla fine c'è, sono in due, vengono sempre in due, l'autista e l'assistente, da. No, aspetta, mi è capito male. Io sto parlando di associazione, no, i ragazzi facevano i volontari, non venivano pagati. I soldi entravano all'associazione per comprare materiale, per comprare ambulanze nuove, per comprare tutto ciò che serviva, cotone, gaze, lenzuola, tutte queste cose qua. Le offerte che ci davano venivano messe per quello, e i volontari non erano pagati, mentre invece adesso ci sono associazioni che li pagano, li fanno addirittura la busta paga. Infatti subitino me le spiegando che alla fine, tipo lui una volta che lo assumono, gli fanno tipo non lo so se è un contratto a tempo indeterminato, eccetera, eccetera, ma i figli ad ogni viaggio li facevano e pigliavano, non lo so, il 10% del viaggio, i subitino. Ho capito, vabbè, bisogna che sia. Ma comunque se uno dice di essere volontario deve fare volontario, non deve far pagare, è quello. Allora non dire che sei volontario, dire che c'è un'associazione di ambulanze che lavora per lucro, non perché per fare volontario, è diverso. C'è gente che dice di essere volontario e poi si fa pagare, non va bene. Infatti sono tutti a basso e tutti canti di così. Sono tutti così, non ve ne è mai alcuno più volontario come sei tu a fare, tutti a scopo di lucro, sono tutti a fare denari. Perché è capitato che mi hanno portato, no? Tipo a fare la trasfusione, e mi hanno detto, e a che ora finisce? E a che ora finisce? Ho detto, non lo so, se ne ho una, ha detto dura un'ora, se ne ho due, dura due ore. Però ha detto, non lo so, se magari il medico arriva subito a controllarmi le sacche, cioè farsi un gozumetto a farsi un'ultra, ha detto potrebbe essere, ha detto le due, potrebbe essere la una, potrebbe essere mezzogiorno, magari se arrivo alle 10 e me la attaccano subito, ha detto 11, mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo la una, dovrei essere assorto. Poi magari leggiamo, ma siamo a Porto Torres, stiamo facendo un altro viaggio, arriviamo tra 5 minuti, la bugia viene tra mezz'ora, la terra vini, è un casino, perché se no tocca a Cabrieri, a Parelli, a Chiri, Brocco Rubio, a Bui, e stanno mi sono nudo, e molte volte devo sopportare, e quando arrivo a casa sono proprio stanco, ma non stanco da, sono stanco dallo stress di trigose, di attacchi tendi, di chiudi di una cosa, buone fasi in un'altra, capito? E come hai detto tu, va bene, mi gira le scatole anche a me, a chi? Cioè sì, fa caso io mi voglio l'autoambulanza, l'ugoso, ma potrei fare un servizio del genere, però lì che se ne approfittano troppo se ne approfittano. La buona di Zinibue, quella signora era contenta, ci ha regalato, ci ha fatto, come si dice, ci ha regalato di nani a chi era contenta, fa un raggio, luce di zenni a chi voi burudù ha fatto un regalo, non solo di bagà, voi burro ha regalato, è speciale di gabbo vinto. Per carità, chi faccia tosta che va? No, a me la verità, quelli che mi hanno accompagnato quando mi hanno operato la gamba, dovevo andare a fare la visita, io non potevo andarci in macchina. E ho chiamato l'ambulanza e sono venuti quelli della misericordia. Però ti ripeto, li devi chiamare prima perché hanno molti servizi. Sono venuti qui e c'hanno ambulanze nuovissime, non nuove, sempre all'avanguardia, attrezzatissime e tutto, centri mobili di rianimazione, eccetera. E praticamente gli ho detto quanto li dovevo dare, mi ha detto un'offerta faccia lì. Ho preso il dato 20, va bene. E lui mi ha detto sì, non ti preoccupare, va benissimo. Cioè, da casa all'ospedale quanto sarà? Vabbè, io ho ciò che ho la base di Lumonti, pensare più dai. sarà un 10 minuti, un quarto d'ora di viaggio. Cos'hai? È vicino, dai. Non è che sia fuori Sassari. Se è fuori Sassari lo capisco, perché devo mettere la benzina e la benzina la devono pagare, no? Chi su è, capito? Però allora, a chi sosso non è che sia tanto lontano, no, da, quindi quant'è, mi sembra che 10 km, 12 km Sassari sosso, pago 80 euro, invece come ti si dice nei giorni, se mi avevano detto offerta, fa dire che ho dato buono 30 euro, buono 50 euro, non è che era stato visto un problema. Il problema è che Edi fanno i sacchetti di tariffe e non solo questi debitani, se Edi vi debita un assistente volontario con te, ogni ora in più mi barifo 10 o 15 euro in più. Tu mi appoga di gabbisi. Sì, fanno pagare il fermo adesso. È tutto cambiato adesso, ma non so se la misericordia sta facendo ancora così, ma provaci, prova a telefonarli a chiedere, ascolti, ma voi come fate a pagare? Io lo so di solito, gli spieghi la situazione e gli dici, ma come fate a pagare voi? A offerta oppure c'è una tariffa? Così, glielo chiedi prima, così la prossima volta non c'è mia edi, c'è mia libri, compreso. Infatti è un casino, già, un casino. Stavo guardando quella cosa nel telefono, voglio quello ideale, ma è generico, cioè fa bene a tutto un sacco di cose. Provo a collegare, sì. Aspetta un attimo già che sto parlando in verticale. Sì. E mi ha detto che c'è tipo pomate, non so come metti. Com'è, in pomata e oppure in olio? No, era quello che prendevo io, la spray. Spray. Spruzzavi, quello che faceva l'amica mia me lo dava in spray, poi quello che ho preso in farmacia mi pare che è liquido, non me lo ricordo però, la verità, però lo mettevo nella boccetta che mi ha dato con l'amica mia, lo facevo spray anche quello, capito? Ah, era tipo un spruzzino, dai, lo mettevi lì e lo facevi vaporizzare, quindi devo cercarlo tipo o spray oppure tipo in olio e tutto così, ma tipo matta non andava. No, non lo mettere il pomata, io ho messo l'acqua, ho messo quello che tipo olio, dai. E mi ha fatto bene quello lì. Però, più ripeto, io non sono un dottore, io a me ha fatto bene, bisogna vedere se fa bene a tutti, e quello è. Un problema, dato provarlo non costa niente. Adesso cerco tipo a vedere se c'è spray o se c'è in olio. Poi piacerò quelle boccette piccoline a fare la spray vaporizzatore di pulirsi bottiglietti. Già dove li chiamo una uguale. Sì, sì. Vabbè. Guarda che si chiama oro colloidale, non olio, è oro. Oro. Però se lo metti tipo su Google ti dà pomate per il viso, pomate per le mani, capito? Infatti l'ha visto, però tipo come sei tu, vuole in olio o in spray. Allora c'è sia l'argento colloidale che l'oro. Ho provato prima l'argento. E l'argento un pochino me lo sta facendo da chiudere, ma era rilento. Allora mi ha dato l'oro. Con l'oro mi si è chiuso. Infatti, va, e prima hai messo l'oro colloidale e poi tutto il silver spray. Io così ho fatto, e mi si è salvato, manco vai, non mi pare vino. Mi si è formato un callo sotto, come ha tappato tutto. E infatti, bisogna bruvarlo, tanto bruvarlo via non cucca nulla. Già sono costose queste cose, 11 euro mi pare che costa il silver spray, no? No, adesso è aumentato, adesso costa 13,50 euro la bomboletta del silver spray. Già è poco, io. Vabbè, te ne puoi scaricare comunque. È lo scontino della farmacia, così, lo allego al 7,30. Sì, te lo puoi scaricare quello. Io, guarda, sono di Gazze, cosa non ha giubilato di Gazze, poi a Gazze, Cerotti, poi il Bettarire per disinfettare attorno, insomma, quella di Sosso che si è aperto la parafarmacia sotto casa, non so se la conosce, Bassottina, Bruttina, la conosce? boh, magari sì, mi. Ma perché prima c'era a Sorso, l'ho visto a la farmacia, mi pare, da voi a Sarrazzo, che era in via Fiorentino. Adesso già dovrebbe essere quella lì. E come hai detto tu, mi traggarsi, chissà, acqua, come si chiama, chi se va sterilizzata, pure i boccetti, tipo di sapone nei baraflebbi, per lavare ubbini. Che dopo che l'ho pulito, che ho fatto tutto, lo risciacquo con quell'acqua lì e poi mi dico come hai detto tu. E, cavolo, un casino, però se funziona sto già va bene. Che tanto devi da manere un po' di sabomassa che mi dici un esempio, perché tanto non me la danno e quindi me la dovevo comprare. Si chiamava Fucidin nei miei bar, si chiama sabomassa. E dice, ma ci vuole, ma cosa ci vuole? Io gli dice, va bene, fa che ci vuole questa, ma ce ne vuole una nocciolina. Tanto che danno i buoni a 3-4 trici, gatto vini a 2-3 buchi e non ve ne la più, costa sempre quella cifra lì, intorno ai 13 euro. E dice, ma purtroppo non la danno. Dice, allora scusiamo un attimo, cosa viene a fare stati ai nobili, se mi dice mio vedi. Ma noi non ci possiamo fare niente se in farmacia non ce n'è, non ce n'è. E vabbè, oggi me la può fare di farmacia mia, danni. Via. Ti scura a noi, ce l'avevo bisogno. Ma non hai compreso, vichissimi, ma stessi, quando entrano e assinavano a Bizzani di tutta tanta la magagna che veni, e tanto ci renderanno i conto di chi hanno fatto, di chi non hanno fatto, di te. Come te lo sciacquo il piede con la soluzione fisiologica? Allora prima lo lavo con l'acqua e il sapone neutro, no? E un cucchiaino di bicarbonato, come mi ha detto tipo quella infermiera che c'è dove faccio le trasfusioni, e poi lo risciacquo con quell'acqua come hai detto tu. Una volta che poi lo asciugo, lo medico e poi lo bendo in giro, senza prenderlo un bene, se non è da voi mi duria tutto il tempo. Tu devi asciugare molto bene, e se sei in casa, se tu lo lasci scoperto, ti si asciuga prima, però non deve toccare da nessuna parte. Se tu stai coricato col piede libero, ti si asciuga prima. Certo, se perde non fa, se perde liquido non fa. Ma infatti già mi sono accorto che quando Battini ce l'ho scoperto che è libero, che sono sdraiato, che non drena, che quando si è sdraiato drena rimane su Battini, oppure non drena nulla, che si asciuga è diverso, anche se rimane un pochino magari gonfio a livello che è tipo dolorante come ferito, però molte volte come rimane si sgonfia anche il piede, la gamba, sì, la gamba prima ce l'avevo, come si dice, lo stinco, diciamo, là, si gonfiava un po' il muscolo sul polpaccio, si rimaneva in fila, in pressione, però per il problema mio della schiena, che mentre l'altra gamba rimane in fila, tranquilla, qui da una cosa che è ferita, me ne dice dei bocchi di strutturarli. Ed è niente, perché tanto il dolore che ho una gamba ce l'ho anche all'altra gamba, per il fattore delle vertebre. E lo pulisco come ti ho detto, lo lavo con l'acqua, l'acqua tintica, il sapone neutro, appena lo pulisco bene in giro, con una garzina, poi lo asciugo bene, anche in mezzo alle dita, come hai detto tu, e poi li metto quella medicina e proviamo a vedere. Però molte volte quando mi va a farinare che si inzuppa, diciamo, la garza, mi negavo giusto, lo pulisco, lo asciugo e lo lascio asciutto. Tanto a toccare già non tocca da nessuna parte, sì. Se sono in cameretta, io mi traio un euroletto, un ghiro, che la radiolina con la musica, il blog, che è tutto lì, poi mi metto sempre un disagio a bassa, mi bongo piccolo assorbente, mi bongo l'assorbente esotto, si trattano i vermi, e poi sopra mi metto una gaglia quando appoggio la faccetta, capito? Quindi no, non tocca da nessuna parte. Papà, dai, ti devo lasciare che si è fatto, devo portare giù il cane, mi dispiace ma devo lasciarti, dai. ci sentiamo magari un altro momento, se trovi prima ci siamo fatti una chiacchierata più lunga, ma adesso devo andare, mi dispiace Sampi, ci sentiamo, dai. Ehi, ehi, raga, non ti preoccupare, andare, mi, sennò che cominciano a fare vado, andare già, dai, già ci sentiamo prossimamente, non ce ne di. Ma ha fatto piacere comunque, dai, ciao già, ciao da Perugani, sì. Ciao, fammi sapere, dai, speriamo che al più presto mi dica mi è passato tutto. Ehi, ehi, ehi, sono contento comunque, ciao già ci sentiamo. Avanti, ciao amico, avanti, chi sei? Gianfranco, comunque se vuoi parlare non ce n'è problemi miei, non ti chiedi tutti, ciao Sanpei, ciao Sanpei, tutta cucina, da voi non ne vai lì, a me fa piacere parlare due parole, due cose, e non ce n'è problema, ma sta giugando i cucini, giugavo quando avevo 20 anni, pure importante, e quindi ciao qui e ciao là, da buttanemi, o vuoi conversare e non ce n'è di problemi, non ce ne pure i problemi, comunque io sono a SOS, se mi vuoi dire sì, vuoi entrare, entra, se no è buona cena, ciao, cosa ti posso dire di più. Ecco, ecco, ci sei, periferia, ci sei. Pomeriggio, a Pruzzimina.